Siamo alla presentazione della quinta edizione del festival In mezzo scorre il fiume, percorsi fra arte, musica e natura, e siamo con Luisa Cottifogli, la direttrice artistica, che ringraziamo. Ciao. Inizierei innanzitutto dalla programmazione. Cosa prevede questa quinta edizione? Come dice il sottotitolo, dei percorsi fra arte, musica e natura, sono 24 eventi, del quale uno abbiamo già fatto ed era il Cantamaggio il 1° maggio, e l'abbiamo fatto entrando in alcuni borghi, in alcuni paesi fra l'Imolese e il Lughese, no? Quindi fra Emilia e Romagna. Da questa festa poi nasce tutto il festival estivo, che è un festival che si bilancia sempre fra la tradizione e la contemporaneità, quindi le radici, ciò che è contemporaneo, insomma le nostre radici dalle quali poi trovare ispirazione. In questo senso noi abbiamo invitato vari musicisti più conosciuti e meno conosciuti. Ad esempio il 3 luglio avremo a Imola Riccardo Tesi, e il suo concerto si intitola proprio Tradizione e Contemporaneità, proprio perché lui, suonando l'organetto diatonico, ha preso sulle spalle la tradizione, l'ha portata in tutta Europa, in tutto il mondo, facendo conoscere questo strumento, però anche aderendo a stili che sono il jazz, il rock, il pop, e quindi con una mescolanza di linguaggi, naturalmente con un suo senso artistico, no? Poi un po' il leitmotiv un po' di tutto il festival, quindi performance dove si può assistere insomma a delle performance, a dei concerti, ma quello che è il denominatore, insomma, il comune denominatore in tutti questi eventi è il fatto di andare insieme facendo escursioni, quindi camminando per i territori, scoprendo i territori, scoprendo la biodiversità e la bellezza naturale e di paesaggio dei territori. E durante queste passeggiate o queste escursioni si trovano gli artisti, oppure gli artisti sono quelli che ci aspettano al termine di queste escursioni, e noi quindi possiamo fruire sia della bellezza naturalistica, della bellezza del panorama, sia della bellezza della musica che viene innestata su questi panorami. Il punto focale di questo è sicuramente l'attenzione alla natura, alla biodiversità. Il festival infatti nasce proprio da una lotta nel 2019 contro il taglio degli alberi effettuati sul Santerno da una ditta che ha fatto dei disastri, per cui in quel momento io ho lottato a livello, cioè, di denunce e così, poi mi sono detta, ma insomma, io ho delle armi forse più potenti, perché sono armi che bypassano la logica e vanno dirette all'emozione, no? E quindi ho organizzato un flash mob a marzo del 2019. In questo flash mob, sotto un drammatico cumulo di alberi, di rami, sono arrivati dei musicisti un po' da tutta Italia a suonare, e le persone hanno partecipato, abbiamo finito cantando tutti insieme, ed è stata una cosa stupenda che mi ha aperto il cuore finalmente e mi ha fatto dire, insomma, la mia arma più potente è questa, cioè il fatto di, come artista, di chiamare degli altri artisti e quindi in questo modo puntare i fari sul territorio. È molto importante soprattutto in questo periodo, perché stanno succedendo delle cose ancora più gravi. Infatti quest'anno il Cantamaggio è stato un grande successo, l'anno scorso non era stato possibile per via delle inondazioni che hanno creato dei grossissimi problemi alla nostra regione. Poi i problemi che ne sono conseguiti, inondazioni e frane. Io abito a Sassoleone e noi per andare su e per scendere facciamo delle strade incredibili, sterrate, è venuto l'esercito a costruirci la strada asfaltata, vabbè. Queste cose qui, soprattutto le inondazioni, soprattutto le alluvioni, diciamo, adesso non so dire delle percentuali, ma il 70% dei disastri sono causati dall'urbanizzazione e dalla cattiva gestione delle persone, diciamo dal dopoguerra in poi, e delle amministrazioni che hanno dato il permesso di costruire in luoghi dove non dovevano costruire. Ma il problema che dicevo prima a livello proprio ambientale è il fatto che varie ditte, che sono ditte private e quindi non lavorano al servizio dei cittadini, stanno impossessandosi di tutti i crinali delle nostre montagne, facendo espropri, cioè quindi causando espropri, insomma, per costruire delle torri eoliche di dimensioni almeno 3 volte rispetto a quelli che siamo abituati a vedere, ad esempio nel parco eolico che c'è sopra casa mia. A Firenzuola si parla di torri, e non scherzo, di 240 metri. Fra il comune di Monterenzio, Casal Fiumanese e Castel del Rio si parla di torri alte 174 metri. Questo nei progetti. progetti. Speriamo che i progetti non passino, perché hanno un alto impatto ambientale, che non è solo quello di vedere queste ventole che girano, no? Ma è quello di costruire delle strade per trasportare il materiale nei luoghi, e quindi con un impatto bruttissimo, cioè un impatto mostruoso. Questi sono ecomostri, e la nostra contrarietà non è tanto contro le fonti rinnovabili, perché queste sono qualcosa di assolutamente positivo, ma contro il fatto che tutti questi progetti in realtà fruttano alle tasche di pochi, di queste aziende, e non vanno a beneficio dei cittadini, no? E tra l'altro mi chiedo, ma che razza di territorio abbiamo preso in consegna e consegniamo alle generazioni future? Quindi il festival In mezzo scorre il fiume si chiama proprio In mezzo scorre il fiume perché nasce da questa lotta, e perché metaforicamente l'acqua scorre, e non solo metaforicamente, la vita nasce dall'acqua, no? E quindi attorno all'acqua, per il futuro, per le nuove generazioni. Quindi arte e musica per un impegno civile. Ci ricorda le date del festival? Allora, il Cantamaggio c'è già stato, sono altre 23 date, dal 29 giugno, 29 e 30 giugno inizieremo con In mezzo ai calanchi di Casal Fiumanese, incontrando anche i produttori locali che rispettano la terra, coltivano rispettando la terra, con due musicisti che suonano le cornamuse, Marco Tadolini e Matteo Rimini, eccezionali. Faremo una specie di pellegrinaggio, insomma, poi una camminata sotto la luna, e il giorno dopo con il violoncellista Enrico Guerzoni mi fionderò sui campi di grani antichi di Belvedere a Vicchio, sopra Castel del Rio, e lì una guida con Corrado Arienti ci porterà a vedere i campi di grano antico con le spighe, ci spiegherà la differenza fra il grano moderno, quello che ci fa un po' male, e invece i grani antichi, poi ci porterà a vedere un antico mulino, e lì dopo, ritornati su, come una volta si farà un concerto campestre con Enrico Guerzoni al violoncello. Questo è lo spirito del nostro festival. Fino al 1 settembre chiuderemo a Monte Bibele, nella zona archeologica di Monte Bibele, con una istruttrice di yoga, meditazione, sarebbe la mia istruttrice, Carmen Caramalli di Monterenzio. Quindi sarà una bellissima conclusione. L'anno scorso abbiamo concluso il festival con una grande festa piena di rumore, di musica, così abbiamo ballato. Quest'anno lo chiuderemo all'alba con una cosa molto più meditativa, e quindi sempre in natura, e vi invitiamo proprio per scoprire questi territori e scoprire anche dei musicisti, anche questi, cioè musicisti più conosciuti e meno conosciuti, e tra l'altro tutti interagiscono con lo Spiritus Loci, per cui i musicisti che noi chiamiamo sono chiamati ad interagire con lo spirito del luogo, oppure scegliamo il luogo a seconda dei musicisti che abbiamo, insomma, anche viceversa, perché è molto importante per noi l'ambiente nel quale andiamo.